Il terzo anello ad alta voce. I Buddenbrock di Thomas Mann. E tu non me lo chiedi nemmeno. Tu mi lasci da parte. Io ho agito come dovevo agire. Hai agito in modo balordo e irragionevole. Non avrei mai creduto che tu fossi capace di offendermi così. Non avrei mai creduto che tu potessi schiaffeggiarmi così senza riguardi. Che cosa accadeva? Una cosa orribile, raccapricciante. Una cosa che agli stessi interessati appariva mostruosa e incredibile. Una lite, una violenta discussione tra madre e figlio. Era d'agosto, un pomeriggio afoso. 10 giorni prima, dopo che il senatore aveva presentato con ogni cautela a sua madre le lettere di Sievert e Clara Tiburtius, gli era toccato il grave compito di comunicare alla vecchia signora la notizia della morte. Poi era andato a Riga per il funerale. Era ritornato insieme al cognato Tiburtius, il quale aveva passato alcuni giorni con la famiglia della defunta consorte, ed era anche andato a far visita a Christian all'ospedale di Amburgo. E ora, mentre da 2 giorni il pastore era di nuovo nella sua città, la signora Buddenbrock aveva fatto con visibile esitazione questa rivelazione al suo figliuolo. 127.500 marchi! Gridò Thomas, agitando le mani giunte davanti al viso. Vada per la dote! Poteva tenersi quegli 80.000 marchi, per quanto non ci siano figli, ma l'eredità! Assegnargli l'eredità di Clara! E tu non mi dici niente, tu mi lasci da parte! Thomas, per amor di Gesù, rendimi giustizia! Potevo fare diversamente, potevo! Clara, che ormai è presso il buon Dio ed è lontana da tutte queste miserie, mi scrive dal letto di morte, ammatita, con mano tremante. Mamma, quaggiù noi non ci rivedremo più e queste sono, lo sento, le mie ultime righe. Le scrivo negli ultimi momenti di conoscenza, col pensiero rivolto a mio marito. Dio non ci ha dato figli, ma ciò che sarebbe stato mio se fossi sopravvissuta a te, fa che tocchi a lui quando tu un giorno mi seguirai, affinché egli ne goda finché è vivo. Mamma, è la mia ultima preghiera, la preghiera di una moribonda. Tu non me lo negherai. Infatti, Thomas, non gliel'ho negato. Non potevo farlo. Le ho telegrafato ed ella è trapassata in pace. La vecchia signora singhiozzava disperatamente. «E a me non si dice una parola, mi si nasconde tutto, mi si lascia da parte», ripeteva il senatore. «Non crediate che la situazione sia allegra», disse con voce sommessa. «Tony ha perduto 80.000 marchi. Christian, oltre all'assegnazione di 50.000 marchi che ha sperperati, ha già consumato i 30.000 di anticipo che aumenteranno ancora perché non guadagna e dovrà fare una cura a Einhausen. Ora non solo va perduta per sempre la dote di Clara, ma anche la sua parte di patrimonio esce dalla famiglia per tempo indeterminato. E gli affari vanno male. Vanno a rotoli proprio dal momento in cui ho impiegato più di 100.000 marchi per la costruzione della casa. Non può essere prospera una famiglia nella quale si provocano scene come questa, credete a me. Se il babbo fosse vivo, se fosse ancora qui con noi, giungerebbe le mani e ci raccomanderebbe tutti alla misericordia di Dio. Guerra e tumulto di guerra, acquartieramenti e tramestio. Ufficiali prussiani si aggirano nella fuga di stanze al piano nobile della nuova casa del senatore Bodenbrock, baciano la mano alla padrona di casa e vengono introdotti nel circolo da Christian, che è ritornato da Oeynhausen, mentre nella casa della Mengstrasse la signorina Severin, Riken Severin, la nuova governante della signora Bodenbrock, trascina con l'aiuto della cameriera una quantità di materassi nel portale, il vecchio edificio nel giardino, ora tutto pieno di soldati. Brulichio di gente, agitazione, tensione dappertutto. Truppe escono dalle mura, altre entrano, allagano la città, mangiano, dormono, rintronano le orecchie dei cittadini col rullo dei tamburi, con segnali di trombe, ordini di comandanti e ripartono. Si vedono principi reali, c'è un passaggio continuo di milizie, poi silenzio e attesa. Nel tardo autunno e nell'inverno le truppe rientrano vittoriose, vengono nuovamente acquartierate e ritornano a casa loro tra gli evviva dei cittadini che respirano sollevati. La pace del 65, breve e gravida di avvenimenti. E fra due guerre, tranquillo e impassibile nel vestitino a pieghe, nell'ondeggiare dei morbidi capelli, il piccolo Hanno gioca nel giardino presso la fontana zampillante o sull'altana, divisa appositamente per lui dal vestibolo del secondo piano con una piccola balaustrata. Gioca i giochi dei suoi 4 anni e mezzo, quei giochi la cui attrattiva e il cui profondo significato nessun adulto saprebbe più comprendere, per i quali bastano 3 ciottoli o un pezzetto di legno sormontato da un fiore di soffione che fa da elmetto, ma ci vuole soprattutto la fantasia pura, forte, casta, fervida, non ancora turbata o intimidita, di quell'età felice in cui la vita ha ancora timore di toccarci, in cui né il dovere né la colpa osano porci le mani addosso, in cui possiamo vedere, udire, ridere, stupirci e sognare senza che il mondo pretenda servigi da noi, in cui l'impazienza di coloro che pur vorremmo amare non ci tormenta ancora pretendendo indizi e prime prove della nostra capacità di eseguire bene quei servigi. Ahimè, non passerà molto e il mondo ci si butterà addosso con la sua goffa strapotenza per violentarci, esercitarci, allungarci, accorciarci, guastarci. Grandi cose accaddero mentre Hanno giocava. Ci furono la conflagrazione della guerra, l'incertezza della vittoria, la vittoria decisa. E la città natale di Hanno Bodenbrock, che si era messa saggiamente dalla parte della Prussia, guardava non senza soddisfazione la ricca Francoforte, che era costretta a pagare la sua fede nell'Austria, cessando di essere una città libera. Ma per il fallimento di una grande ditta di Francoforte, nel mese di luglio, immediatamente prima dell'armistizio, la casa Johann Bodenbrock perdette d'un colpo la bella somma di 20.000 talleri. Thank you. Il signor Hugo Weinschenk, che da qualche tempo era direttore della compagnia cittadina di assicurazioni contro gli incendi, aveva l'aspetto di uomo attivo, agiato e imponente. D'altra parte, Erika Grülich, ormai ventenne, era una ragazza alta e florida, dalla carnagione fresca e piena di salute e di energia. Quando il caso la portava a scendere per la scala, o ad affacciarsi alla ringhiera del piano di sopra nel momento in cui passava il signor Weinschenk, e il caso non la portava di rado, il direttore si toglieva il cilindro e salutava la fanciulla con uno sguardo stupito e ammirativo degli occhi castani, arditi e irrequieti. Dopodiché Erika scappava via, andava a sedersi vicino a una finestra a piangere per un'ora, tanto era confusa e impacciata. La signorina Grünlich, sotto la tutela di Therese Weichbrot, era cresciuta nel timor di Dio e i suoi pensieri non arrivavano lontano. Piangeva per il cilindro del signor Weinschenk, per il modo con cui la guardava alzando di scatto e lasciando ricadere le sopracciglia, per il suo portamento quasi regale e per i pugni dondolanti. Sua madre, invece, la signora Permaneder, vedeva più in là. L'avvenire di sua figlia le dava da pensare già da anni, perché Erika, in confronto ad altre ragazze da marito, era in svantaggio. La signora Permaneder non solo non frequentava la società, ma viveva ostile a questa. La sua seconda dote, i 17.000 talleri che il signor Permaneder aveva restituiti con tanta larghezza, erano a disposizione di Erika, e non appena la signora Antonie, esperta e oculata com'era, ebbe notato i dolci approcci tra il direttore e sua figlia, incominciò a pregare il cielo che il signor Weinschenk andasse a farle visita. Questi lo fece davvero. Si presentò al primo piano, fu accolto dalle tre donne, la nonna, la figlia e la nipote. Chiacchierò per 10 minuti e promise di ritornare un pomeriggio a prendere il caffè e a discorrere con maggiore comodità. Anche questo avvenne, e così si fece la reciproca conoscenza. La signora Permaneder abbracciò e valutò con rapido sguardo la situazione. Ne parlò francamente con sua madre e col senatore. Era chiaro che gli interessi delle due parti si incontravano e si completavano. Come Erika, anche il direttore Weinschenk era privo di relazioni con la società. L'uno aveva addirittura bisogno dell'altro e sembravano proprio destinati da Dio a vivere insieme. Insomma, da tutte e due le parti c'era molta buona volontà. Le visite pomeridiane del direttore Weinschenk si fecero più frequenti e in gennaio, il gennaio del 1867, egli si prese la libertà di chiedere con poche, ferme e schiette parole la mano di Erika Grülich. Le settimane passarono e il periodo del fidanzamento di Erika volgeva alla fine. La giovane coppia aveva fatto poche visite perché il direttore, lavoratore serio e inesperto della vita di società, intendeva dedicare le ore di riposo all'intimità della casa. Il vestibolo a colonne fu come una volta, quando la signora Grülich era ornata di mirto, il teatro della cerimonia nuziale. Il direttore Hugo Weinschenk aveva un aspetto maschio e imponente e, per andare fino all'altare improvvisato, pestò una sola volta il lungo velo di Erika. Il pastore Pringsheim, le mani giunte sotto il mento, celebrò con tutta la solennità estatica che gli era propria e tutto si svolse con decoro e secondo le usanze. E qui incominciò il terzo matrimonio di Tony Bodenbrock. La definizione colpiva nel segno e il senatore stesso l'aveva usata un giovedì quando i due sposi non erano presenti. La signora Permaneder l'aveva accettata con compiacimento. Difatti tutte le cure per la casa cadevano sulle sue spalle, ma ella si prendeva anche la sua parte di gioia e di orgoglio, e un giorno, incontrando improvvisamente per la strada Julchen Möllendorf, nata Hagenström, La guardò in faccia con un'espressione di sfida così trionfante che la signora Möllendorf si adattò a salutare per prima. Gioia e orgoglio assumevano sul suo volto e nel suo atteggiamento un tono di gravità solenne quando faceva da guida ai parenti che venivano a visitare la casa nuova, mentre Erika stessa vi faceva quasi la parte di un ospite, tutta compresa di ammirazione. Era la primavera del 68, allorché la signora Permaneder, una sera verso le 10, si trovò al primo piano della casa della Fischergrube. Il senatore Budenbrock era solo nel salotto. «Oh, sei tu, buonasera. Già di ritorno da Pöppenrade? Come stanno i tuoi amici?» «Buonasera, Tom. Grazie. Armgard sta bene. E tu qui, così solo?» «Sì. Per questo vieni a proposito. Questa sera ho dovuto mangiare solo come il Papa. Che cosa mi racconti?» «Ah sì, Tom. Questa sera sono venuta per una faccenda seria e importante.» «Sentiamo.» «Rolf von Maibohm è una persona gentile, ma uno sventato, un caposcarico. Gioca a Rostock, gioca a Warnemünde e i suoi debiti sono come la sabbia in riva al mare. Ti dirò, Tom, il signor von Maibohm ha bisogno di denaro. Gli occorre subito una somma cospicua e, conoscendo la vecchia amicizia fra me e sua moglie e sapendo che sono tua sorella, nel suo imbarazzo ha mandato avanti la moglie, la quale, a sua volta, ha mandato avanti me. Hai capito? Il senatore si passò i polpastrelli della destra su e giù fra i capelli e contrasse un po' il viso. «Mi pare di sì», rispose. «La tua faccenda seria e importante mi pare che si riduca a un anticipo sul raccolto di Peperrade, è così?» «Sei in errore, Tom. Qui non può trattarsi di un anticipo. Maibohm ha bisogno di 35.000 marchi. Corpezzoli!» 35.000 marchi, il cui pagamento scade fra 2 settimane. Ha il coltello alla gola e, per parlar chiaro, è costretto a vendere subito su 2 piedi. Vendere il raccolto in erba? Oh, povero diavolo! E il senatore, giocando con gli occhiali sulla tovaglia, scosse la testa. Ma per noi questo mi sembra un caso piuttosto insolito. Insomma, quello si inganna sul conto mio e sul tipo della nostra azienda. Io ho le mie tradizioni. In 100 anni non abbiamo mai fatto un affare simile e non intendo incominciare adesso con tali manovre. Certo, Tom, tu hai le tue tradizioni e io le rispetto. Ma lasciamo andare. Non voglio insistere. Ho forse il modo di convincerti? No, mi mancano gli elementi. Io sono soltanto una sciocchina. Peccato. Ma poco importa. Era una cosa molto interessante. Da una parte ero spaventata e rattristata per Maibohm, dall'altra ero contenta per te. Dicevo fra me, da qualche tempo Tom vive senza gioia. Prima si lagnava e ora ha smesso anche di lagnarsi. Ha avuto qua e là qualche perdita. I tempi sono cattivi. Proprio adesso, mentre la situazione mia è migliorata con l'aiuto di Dio e io mi sento felice. E poi ho pensato ancora. Questo è un colpetto che va bene per lui, una buona retata. Con ciò potrà tappare qualche buco e far vedere alla gente che la ditta Johann Budenbrock non è ancora abbandonata dalla fortuna. E se tu avessi accettato, sarei stata orgogliosa di aver fatto da intermediaria, poiché tu sai che è sempre stato il mio sogno e il mio desiderio di rendere qualche servigio al nostro nome. Basta. Ora la questione è liquidata. La signora Permaneder tacque, poi si alzò e disse: «Non voglio insistere. Sei tu che devi sapere ciò che si deve fare o non fare, e tanto basta, purché tu creda che ho parlato in buona fede. Siamo d'accordo. Buonanotte, Tom». E così si allontanò. Thank you.